E benvenuti alla 21esima puntata di Cialtroni nello spazio, trasmissione settimanale di musica, cultura e soprattutto cultura informatica e digitale libera. Cultura libera. Libera e open libera. Source e free. E tutto quello che vuoi. Marco, dai, dicelo tu meglio. Cos'è Cialtroni nello spazio? No, non penso di poterlo dire in modo migliore di come l'hai detto tu. Allora, un saluto da Francesco. Un saluto da Marco. E un saluto da Alessandro. Che sta in DJ. In console. Alex DJ, it's okay. Beh dai, 21 puntate non sono poche comunque, devo dire. Cosa parliamo oggi? Rapidamente abbiamo un po' di news generale sull'informatica. Parleremo un po' di RSS. Che cosa significa Alessandro RSS? Se lo mettiamo nel sommario, poi non c'è più diciamo niente dopo. Da dire dopo. Esatto, e poi abbiamo da parleremo un attimo dell'Hack Meetings svolto a Napoli appunto in questi giorni. Musica, di che cosa invece ci proponi la selezione di oggi, Ale? Allora, come base abbiamo cambiato la base, sempre dal sito chemicalbraversremixed.com. Abbiamo scaricato l'EP Believe, che è un album composto da 6 remix della stessa canzone dei Chemical Brothers, che è Believe, fatta da diversi personaggi. Sempre... Ce la fai sentire 6 volte, oggi non ho capito. No, questa sarà solo la base. In realtà poi, legato al discorso musicale, parleremo di Cici Mixter, che è un progetto collegato a Creative Commons, che ha organizzato il secondo concorso per DJ, per la produzione appunto di musica. Comunque ne parliamo dopo. E andiamo invece a sentire, sempre legato a questo progetto, dalla compilation che è stata prodotta a dicembre a seguito del concorso organizzato con Wired, che è una rivista, diciamo, sul tecnologico, comunque di questo tipo, molto famosa. Andiamo a vedere appunto The Fine Art of Sampling Contest, l'album con i vincitori e in particolare il primo brano. Un giorno cercherò di capire perché noi iniziamo sempre con un brano musicale invece che con le news. Però vabbè, questo è un problema di coordinazione. Perché sei tu che mi chiedi che musica. Io ti chiedo che musica andremo ad ascoltare durante la puntata di oggi. Un po' come il sommario, insomma. E allora vai con le news. E allora andiamo con le news. Innanzitutto partiamo da quello che Marco ci presenterà. Un articolo comparso su Zeus News che presenta delle considerazioni abbastanza interessanti sulle interviste che sono state fatte relativamente a un nuovo meccanismo di protezione di audio CD. Allora, innanzitutto un attimo di storia. Probabilmente se avete acquistato recentemente dei CD audio vi siete accorti che tipo sui CD non c'è più la scrittina CD compatibile o cosa del genere, in quanto da ormai 4-5 anni tutti i CD che vengono prodotti sono CD audio, appunto, che vengono prodotti, hanno delle protezioni per evitare la copiatura dei brani che sono presenti su questo CD. Ne avevamo parlato presentando CD Ripper e altri software che permettevano di, insomma, farvi le vostre copie personali dei CD. Ecco, moltissime case discografiche, la EMI, la Sony, la Virgin, comunque vai, praticamente tutti i grandi circuiti di distribuzione applicano queste protezioni. Indipendentemente dall'autore che pubblica appunto la canzone. Sì, molto spesso gli autori non hanno voce in capitolo su questa cosa. Molto spesso non lo sanno nemmeno cosa sia. Questo è pure vero. E diciamo, queste protezioni ci sono state di tipi diversi, dalle prime protezioni che erano eludibili semplicemente con un colpo di pennarello dato dietro sulla parte scritta, a altri tipi di protezione che impedivano il funzionamento dentro un PC, ma che bastava tenere lo shift schiacciato nel computer quando si metteva dentro il CD, delle cose. Vabbè. Sì, le prime erano abbastanza idiote, poi per fortuna insomma, si sono evoluti anche, esatto, loro. Esatto, e adesso comunque l'idea è sempre quella, cercare di ridurre quello che una persona fa con un CD che acquista regolarmente. E quindi adesso abbiamo questo nuovo formato di questa nuova metodologia per, diciamo, per impedire la copiatura dei CD audio. Di particolare ha che è prodotta in collaborazione con è una collaborazione tra la Microsoft e la Sony, e in particolare ovviamente permetterà di leggere il CD solo da computer Windows e solo con il media player integrato di Windows. La cosa ancora più strana è che verranno questa volta non verrà impedito di fare la copia, ma verrà permesso di farne soltanto tre, una cosa particolare a cui non si era ancora arrivati. Altra particolarità è che, appunto, siccome è nata dalla collaborazione tra Sony e Microsoft, non c'è stato poi un accordo tra Apple e Microsoft per integrare la possibilità di leggere questi brani sull'iPod, e quindi sostanzialmente il lettore più diffuso di MP3 portatile non sarà in grado di leggere questi brani musicali estratti dai CD. Quindi si tratta in definitiva dell'ennesimo sopruso delle major musicali nei confronti delle persone che acquistano regolarmente un CD originale. Ma a questo punto ci viene da chiederci perché uno dovrebbe comprarsi i CD originali quando a questo punto se li scarica semplicemente da internet, non ha tutti i problemi dovuti al fare le cose secondo quanto deciso da qualche cervellone della Sony o della Microsoft. Per entrare un attimo ancora di più nel dettaglio, c'è un interessante pezzo di intervista che è stata fatta all'autore del dispositivo, ovvero una casa britannica che si chiama First for Internet, che nelle sue stesse parole ha detto di aver inteso creare una sorta di dissuasore di velocità, quei dossi artificiali che costringono le nostre auto a rallentare nei pressi delle scuole. Infatti Matthew Gilliatt Smith, l'amministratore delegato di First for Internet, dice che tentiamo di scoraggiare il consumatore medio dal fare troppe copie. Forse non riusciremo a fermare lo scambio peer-to-peer, ma il nostro scopo è fermare la pirateria casuale. Vogliamo che le persone si facciano delle domande sull'illecito che stanno per compiere. Quindi, insomma, per una volta hanno finalmente la faccia tosta di ammettere che lo scopo delle protezioni ai CD non è quello di fermare l'industria, in un certo senso anche malavitosa, della pirateria, ma rendere proprio difficile la vita del consumatore medio, quello che insomma potremmo identificare come il normale utente che si compra un CD, vuole farsene una copia perché ha paura di perderlo, o comunque vuole farsene una copia da ascoltare in auto senza la paura che gli rubino l'auto e tutte le sue preziosissime collezioni discografiche. Insomma, si noti che anche in corrispondenza di questi dissuasori di copia non verrà ritoccato in basso il prezzo del CD, come magari uno potrebbe supporre, visto che questo CD è appunto prodotto con tecniche che vanno a limitare la libertà d'uso di questo CD. Facile pensare che invece aumenteranno per pagare queste protezioni. Beh, inutile dire anche che tutte queste protezioni spingono tutti i lettori a degli sforzi notevoli, per cui ad esempio il lettore della macchina, se non è nuovo, probabilmente farà fatica a leggerlo. Il lettore portatile salterà molto di più. Quindi stai dicendo che magari io compro un CD e sulla mia macchina non funziona? È molto probabile. Per forza non ho il CD in macchina. Tutte queste protezioni hanno anche degli effetti collaterali sui lettori normali, per cui su lettore nuovo perfettamente. Ma potrebbero anche esplodere? No. Comunque, alla faccia di tutte queste nuove protezioni, parliamo un attimino del progetto legato... L'altro lato della musica. Esatto. Allora, CC Mixter, che è un progetto legato, come abbiamo detto, a Creative Commons, le licenze che avevamo presentato, e è un progetto che appunto utilizza una delle Creative Commons, quella Sampling License, ovvero una licenza che permette... A chi vuole utilizzare pezzi di un brano per remixare, di poterlo fare liberamente senza chiedere l'autorizzazione al creatore, che non è iddio ma è... Nel novembre del 2004, abbinato appunto alla rivista Wired, era uscito un CD i cui autori hanno dato la disponibilità di alcuni loro brani, e appunto per questo concorso per cui poi sono stati premiati 10 DJ, remixer, eccetera. Tra i vari autori ci sono i Beastie Boys, Le Tigre, Gilberto Gil, tutta una serie di artisti anche di una certa fama, Fever Corporation, eccetera. Di questi autori appunto sono stati fatti dei brani, e dai vincitori andiamo ad ascoltarci Dislocation di un DJ. Questo brano musicale, torniamo a parlare appunto Alessandro di questi progetti. Allora parliamo del progetto, perché dopo il primo concorso da cui appunto è stato ricavato questo disco, il Cici Mixter ne ha iniziato un altro assieme a Magna Tune, che è un repository musicale via internet, una sorta di micro etichetta, diciamo, anche se non è completamente legata alle licenze open. Comunque in questo caso ho deciso di distribuire tutto sotto appunto la licenza Share Alike e sampling della Creative Commons. L'iscrizione al concorso finisce il 31 di luglio, quindi chiunque voglia partecipare. Sul sito CC Mixter c'è tutto il regolamento, che consiste nel appunto nel prelevare il materiale dal repository di Magna Tune, quello che Magna Tune ha reso disponibile. Il link è presente sulla pagina di iscrizione, che purtroppo è solo in inglese. Esistono vari software per fare questi lavori, tra cui anche Audacity, consigliato. I 10 vincitori entreranno a far parte di una compilation che verrà venduta da Magnatune e del ricavato in pratica il 50% andrà all'artista che ha fatto il remix e l'altro 50% all'artista che ha prodotto il pezzo originale. Insomma, con questa sorta di contratto e più una serie di gadget in Magnatune, vabbè, questo penso che sia meno importante. E ci sarà una giuria che giudicherà tutti i lavori e tutto verrà appunto distribuito sotto licenza Share Alike, che è una delle licenze disponibili nella Creative Commons. Andiamo a parlare adesso del RSS, come seguendo la scaletta che avevamo fatto. Allora, chi ha voglia di spiegare che cosa sono gli RSS e perché usarli? Il nostro prescelto stavolta è Marco. Cosa sono gli RSS, Marco? Allora, gli RSS sono una specie di sottoinsieme del linguaggio dell'HTML, quello con cui vengono fatte le pagine web. In particolare dell'XML, che è una cosa simile, vabbè, non stando troppo nel tecnico. Fondamentalmente sono un modo per distribuire delle news in un formato fruibile da semplicemente da un programma o a volte anche direttamente dai browser web. Questo RSS nascono più o meno assieme alla nascita dei blog. Infatti normalmente i blog possono esportare le notizie contenute in un blog. Che cos'è un blog, dovreste chiedermi, ma voi due siete troppo distratti. No, non siamo distratti, stavi spiegando bene. Allora, un blog, lo riassumo per quelli che non sapessero, è una specie di diario che una persona... Ho capito perché ti sei messo a parlare dei blog, stiamo parlando degli RSS. Vabbè, è nato relativamente a quello. Sì, sono nati insieme anche il dinosauri. Vabbè, era un modo per esportare, diciamo, delle news, delle notizie. Gli RSS sono appunto un modo per esportare delle news, delle notizie su internet. Si possono integrare facilmente dentro delle pagine web, ovvero sì, io posso prendere un sito di news, per esempio. Iniziamo magari con parlare anche un po' delle comodità di un RSS. Per esempio, se noi abbiamo un sito che visitiamo molto spesso e che ci interessa semplicemente vedere l'ultima versione, cioè quella che avremmo facendo click sul nome del sito, una cosa che capita molto spesso con i siti più diffusi, per esempio mi sembra che sia Repubblica, ne sono sicuro, e forse anche il Corriere della Sera, sono dei siti di informazione che hanno l'opzione di RSS. Quindi con il nostro browser preferito, che è ovviamente Mozilla, possiamo semplicemente con pochi tasti fare click in fondo alla pagina, sottoscrivere gli RSS e ci troveremo un menu nella nostra tabella di navigazione o dei preferiti a seconda di dove vogliamo metterla. Facendo click su questo menu ci compare già direttamente il titolo degli articoli che sono presenti in quel momento sul Corriere della Sera, quindi in due click sappiamo già com'è quella pagina senza dover aspettare di caricare tutto il sito. Questa per esempio è una cosa comoda quando vogliamo seguire dei siti di informazione solo per sapere quali sono le cose che ci sono in quel momento. Per cui con un rapido colpo d'occhio abbiamo la lista delle notizie e semplicemente guardando i titoli e magari le prime due o tre righe di questo, appunto, di questo articolo, sappiamo già se l'articolo ci interessa o se semplicemente non vogliamo neanche leggerlo. Per cui facendolo scorrere vediamo quello che ci interessa, ci si clicca sopra e a quel punto in automatico si apre il browser, ci fa vedere l'articolo completo e questo è segnalato utilizzando Firefox con un'iconcina arancione in fondo alla pagina. Sì, generalmente viene utilizzato appunto come standard delle iconcine arancioni con scritto XML o RSS e ORDF in alcuni casi. Sono tutti sistemi diversi per fare la stessa cosa, quindi per dare appunto i sommari delle notizie e i contenuti delle notizie in un modo più sbrigativo e più semplice, come dice l'acronimo stesso della parola. Forse un'altra funzione ancora più interessante è invece che integrarlo con un browser web come Mozilla Firefox, con il cugino di Mozilla Firefox, ovvero Thunderbird, è possibile fare anche qualcos'altro. È possibile tenere l'archivio storico delle notizie, perché questi RSS in pratica propongono le notizie nuove, non so, blocchi da 10, 15, 20 a seconda delle politiche del sito, e però appunto se utilizzate Firefox quello vi fa vedere solo le ultime 20, le ultime 30. Quindi per tenere l'archivio delle notizie, per selezionare quelle che più interessano, per filtrarle, quindi si può utilizzare Thunderbird. Basta creare un nuovo account seguendo l'opzione crea nuovo account che c'è nelle proprietà. Si crea un nuovo account di tipo news e all'interno di questo account è possibile inserire quelli che si chiamano feed, ovvero quei collegamenti alle pagine dei siti che ci interessano, come ad esempio diceva Francesco Repubblica, le maggiori testate nazionali, Indymedia, e la maggior parte anche dei siti di movimento hanno questa possibilità, quindi Indymedia che ha anche diverse politiche per cui è possibile avere sia la pagina generale che le varie sottosezioni regionali piuttosto che divise per argomento. Beh, un giorno se Cialtroni nello spazio diventasse una testata quotidiana, il peggiore dei vostri incubi, potremmo fare un RSS anche su Cialtroni nello spazio. Sì, diciamo che tutte quelle realtà che producono notizie oggi come oggi devono utilizzare questo genere di sistema perché è il modo più pratico per raggiungere, è un po' il mix tra la mailing list, diciamo, e la semplice pagina web. Mixa le due cose e le rende collegate insieme. E tra l'altro potremmo anche fare prossimamente, non oggi visto che è già abbastanza tardi, un approfondimento sulla gestione della pubblicità negli RSS, visto che ci saranno delle novità nei prossimi mesi, visto che questo metodo ovviamente potrebbe implica per molti produttori commerciali un nuovo modo di pensare alla pubblicità. Perché naturalmente se tramite l'RSS non vi vedete parte della pubblicità che dovete vedere andando a navigare il sito della testata giornalistica di turno. Quindi è un modo per vedere il sommario senza vedere la pubblicità del sommario, e questo ovviamente incide poi su quanto pagano gli sponsor, diciamo. Tra pochissimo parleremo dell'Hackmeeting. E intanto andiamo a sentire un altro brano, Oslodum, con un campione di Gilberto Gil, sempre dalla compilation tratta da Wired. We'll be right back. E quindi siamo quasi in chiusura di trasmissione. L'ultimo argomento di cui andiamo a parlare è l'EC Meeting, che si è tenuto a Napoli la scorsa settimana, lo scorso weekend, in particolare presso il centro sociale Terra Terra, un incontro che viene organizzato ogni anno, più o meno quasi sempre attorno alla seconda metà di giugno, metà di giugno. In particolare quest'anno, come anche negli anni scorsi, in fondo si è parlato molto della logica dei brevetti, dei brevetti che l'Europa sta per legalizzare, ma noi l'abbiamo già fatto diverse volte e non ci torniamo sicuramente oggi. La cosa interessante è che ci sono stati un po' riscontri sulla stampa, non moltissimi in realtà, ci sono stati un paio di articoli tra Manifesto e Liberazione sulla stampa mainstream. Andiamo a prendere l'articolo di Liberazione scritto da Emanuela Del Frate e Cristina Petrucci, che appunto scrivono: nonostante le legislazioni dei diversi governi locali continuino a dare un'immagine degli hacker come pirati informatici, individui socialmente pericolosi, coloro che partecipano agli hack meeting partono da tutt'altri presupposti. L'etica hacker infatti consiste essenzialmente nel desiderio e nel metterci le mani dentro, e così come si realizzano codici e programmi per ottenere un obiettivo, così nella quotidianità questa attitudine si manifesta nella voglia di capire, voler modificare la realtà che ci circonda, partendo proprio dall'acquisizione degli strumenti che permettono di farlo. Gli hack meeting diventano spazi di incontro, di condivisione, di strumenti, ma soprattutto di conoscenze, visto che condividere saperi e confrontarsi con chi fa altrettanto è l'applicazione della quotidianità dell'etica hacker. No, perché non sono capace. Allora, in questo spirito di condivisione, la scelta del software libero e il rigetto della logica dei brevetti software che l'Europa si accinge a legalizzare, inchinandosi a poche multinazionali che ambiscono a diventare le uniche detentrici del sapere informatico e del relativo giro di affari. Questa insomma è una delle cose che scrivono gli organizzatori delle manifestazioni. Il quadro legislativo, ne parlavamo, crea sia quelli italiani che quelli esteri, consolidano, creano delle leggi e dei regolamenti per restringere sempre di più la privacy dei propri cittadini, estendere capillarmente il controllo sociale sfruttando tutte le tecnologie di comunicazione ormai indissolubilmente legate alla vita di tutti noi. A questa logica di continuo controllo scaturito, dicono, dal bisogno di sicurezza dopo gli avvenimenti degli ultimi anni, c'è chi invece propone e mette in pratica un bisogno di pensare e capire e creare strumenti che aumentino le possibilità di scambio. Ma tu, Marco, che sei stato a qualche hack meeting, ci racconti un po' di questo spirito e magari ci fai anche un panorama, se visto che hai dato un'occhiata anche, purtroppo non sei andato tu direttamente in questi 3 giorni a Napoli, però hai dato un'occhiata a quali erano i seminari anche che ci sono tenuti. Beh, una cosa che non salta, o magari salta fuori dall'articolo, però vabbè, vale la pena di evidenziare, è che fondamentalmente gli hack meeting sono organizzati assolutamente dal basso, nel senso che non c'è nessuno che va a decidere di che cosa si parli, decide un filo dell'hack meeting, ma semplicemente sono i singoli che decidono di condividere le loro conoscenze in un particolare argomento di loro interesse e chiedono di poter fare un seminario all'hack meeting. Normalmente alla fine si hanno addirittura sovrapposizioni di seminari, per cui nello stesso momento ci sono 3-4 seminari in sale diverse, per cui magari uno salta da una stanza all'altra, ne segue un pezzo di uno, ne segue a seconda di quello che gli interessa, e fondamentalmente sono sempre gestiti da coloro che hanno in prima persona messo le mani dentro il determinato argomento. Quest'anno avevamo un sacco di seminari interessanti, mi è spiaciuto un sacco non poter andare, ci sono andato negli ultimi 3 anni a tutti gli hack meeting. Ha anche tenuto un seminario? Ho anche tenuto un seminario. Su cosa? Su sede AVK, due software di per la gestione dei file di testo sotto Linux, che è stata una tragedia. E no, beh, gli argomenti comunque sono piuttosto vari, sì, ci sono alcuni seminari molto tecnici, comunque riguardanti parti diciamo poco divulgative, alcuni seminari invece totalmente divulgativi, quindi che parlano di discorsi generali, come appunto uno che è stato quest'anno, l'e-government, e-democracy e digital divide, quindi un discorso piuttosto generico sulle nuove tecnologie. A volte anche degli argomenti per puri neofiti, da come installare Linux o come usare OpenOffice. Esattamente, la presentazione dei progetti, c'è sempre qualche progetto presentato. Quest'anno c'è stato neuroni.org e Ippolita.net, che era quello di cui avevamo parlato, e di neuroni magari ne parleremo quando sarà pienamente quando attivo. Sarà pienamente attivo, e un seminario su OpenOffice assieme a seminari su come scrivere codice offuscato, che per molti non vorrà dire nulla, ma comunque per dare una panoramica insomma sulle tematiche trattate, che vabbè sono simili a volte a alcune tematiche che trattiamo noi, diciamo che noi scremiamo le parti più specifiche più di settore e saltiamo. E, per esempio, nell'ultimo Hack Meeting ci sono state anche le presentazioni di alcuni libri di cui noi avevamo già parlato, tipo Open Non è Free o... Esatto, che sta girando un po' nel circuito indipendente adesso. E comunque è sempre un bel appuntamento, ricco di presentazioni. Soprattutto lavora su una cosa che è comunque una fetta importante delle nuove tecnologie in generale, che è l'istruzione. A livello diciamo di business, l'istruzione si paga, e si paga molto caro. I vari attestati anche nel mondo Linux sono cose che si pagano molto. Tutto questo invece, tutto quello che viene fatto all'Hack Meeting è assolutamente gratuito, spesso e volentieri più approfondito rispetto ai vari corsi con tanto di disegnini e colori, molto marketing. Tipicamente in PowerPoint. Esattamente. E, diciamo, un'altra cosa molto bella dell'Hack Meeting è comunque la partecipazione. L'ultima che ti lasciamo dire, perché poi chiudiamo. Perché appunto a un seminario in cui qualcuno sta parlando di un determinato argomento, se ci sono delle persone nella sala che... cioè, non è, si tende a fare proprio la presentazione, uno che parla e 100 che ascoltano, ma invece c'è appunto lo spirito di condivisione con... discussioni che a volte saltano fuori direttamente lì il relatore e altre persone che comincia e tutti diciamo si danno una mano nel cercare di spiegare cose, gente che interrompe, chiede. Capita a volte anche di fare proprio delle cose insieme, delle sessioni in cui si produce qualcosa. Quindi è tutto lasciato molto alla libertà di iniziativa dei singoli. Non sento la nostra sigla partire, devi alzare il volume. È alto, ma non è partito. Ed era questa la 21esima puntata di Cialtroni nello spazio. Ci sentiamo la settimana prossima, non sappiamo ancora per quanto tempo, non sappiamo quando vogliamo andare in vacanza. Il prima possibile. O il più tardi, chi lo sa. Se volete dire la vostra potete... cioè tipo parlare male di noi oppure dirci smettetela di branco di cialtroni, c'è la nostra sul nostro sito, avete la possibilità di riempire una form e chiedere e dirci quello che volete, o chiedersi spazio, magari degli argomenti per le prossime puntate. spazio.circolab.net è il nostro sito, e su cui trovate la possibilità di scaricare tutte le puntate precedenti, quasi